regali, compleanno, ogni volta sempre per te. Se un giorno ti chiesi per i giochi chi li ha presi, persi, ma da quel giorno non mi arresto. Grazie per tutte le parole che mi hai detto, grazie per tutte le carezze che mi hai fatto, grazie per tutte quelle volte in cui non ti ho ringraziato, grazie perché mi hai perdonato. Grazie per tutte le parole che mi hai detto, grazie per tutte le carezze che mi hai fatto, grazie per tutte quelle volte in cui non ti ho ringraziato, grazie perché mi hai perdonato. Scavo in questa mia memoria, adesso vado verso i ricordi che ho perso, che adesso ritornano spesso in superficie. Una canzone non si dice, ma è il minimo che possa fare per farti felice, dirti scusa per tutte le volte che sono stato io a colpirti, ferirti. Lo so che solo un figlio può capirti, amarti. Vorrei farti vedere la mia immagine nei corti e non sopra una traccia, che alla fine non ascolti più. Sotto i vortici di questa città, senza una luce, senza voce, adesso brucia come sabbia nei deserti. E ci sono 3 minuti in questi fogli aperti, scrivo adesso vivo solo.